tecnologia, quali applicazioni pratiche può avere? È difficile immaginare i campi di applicazione di ogni nuova tecnologia. Pensiamo allo stesso computer. Inizialmente erano esclusivamente macchine di calcolo destinate ad usi militari o per università o grandi imprese. Pensa che il primo computer commerciale nasce negli USA nel 1951 e ancora alla fine di quel decennio c'erano 2500 computer in tutti gli Stati Uniti d'America. All'epoca non si riusciva nemmeno ad immaginare a cosa mai potesse servire un computer da tenere in ufficio o addirittura a casa. La stessa cosa avviene oggi per l'applicazione della tecnologia del blockchain. Ma ora pensiamo ad internet, il nostro simpatico paesino. Ecco, Filippo ha una bellissima fattoria, non usa pesticidi ed esegue tutte le lavorazioni rispettando ogni norma necessaria per produrre in modo biologico. Vorrebbe garantire al 100% i suoi clienti che le sue marmellate sono perfettamente biologiche. Ed ecco che, applicando sul suo barattolo un QR code, cioè un codice leggibile su un qualsiasi smartphone, ogni cliente potrebbe facilmente risalire a tutto il ciclo di produzione delle sue straordinarie marmellate. Si avrebbe ad esempio sia la certificazione delle fasi di produzione della marmellata, ma allo stesso tempo anche del riciclo del vetro o del metallo del tappo che compongono il barattolo. L'applicazione di questa tecnologia evita che si possa falsificare un qualsiasi documento. In pratica compreresti un'auto usata con la certezza che le manutenzioni siano sempre state fatte con i ricambi originali e nei tempi corretti. Oppure quando vai al ristorante puoi tracciare gli ingredienti di tutte le ricette del menù.